politicamente siamo alle solite, Partito Democratico che si riempie la bocca sempre di alleanze, di possibilità di stare uniti eccetera, poi alla fine fa i suoi interessi. Nel caso di Aitini è evidente che viene meno uno stipendio per il PD che viene trasferito sulla giunta e il comune, e quindi siccome avevano anche dei problemi di carattere economico gli risolve in parte questo tipo di problematica, e in più c'è tutto l'elemento delle elezioni perché il loro capo ha deciso di mettere casini e quindi loro hanno, mi si permette il gioco di parole, qualche casino interno e quindi devono risolverlo, insomma questo mi sembra evidente, quindi loro fanno i loro interessi, è un partito che non, ma io l'ho già detto da molto tempo, insomma non dà speranza soprattutto a Bologna, ecco, quindi adesso vediamo le elezioni perché c'è anche caso che con l'evolversi delle elezioni finalmente l'anomalia del Partito Democratico finisca, insomma, e diventi quello che è, un partito conservatore, e la smetta di far finta di pensare alle scelte progressive dell'umanità, ecco, perché è tutto finto. Tutto finto, e questa è l'ennesima dimostrazione. Merola si conferma come sempre una persona spregiudicata, non guarda in faccia nessuno. La Gambarelli l'ha presa, l'ha usata e l'ha buttata via. Ovviamente la Gambarelli era indipendente. Lei da parte sua è abbastanza colpevole perché era molto legata a me e quindi sapeva benissimo cos'era successo a me, ma ha voluto toccare con mano. Adesso tocca con mano, insomma, che cos'è Merola e come si muove, con che spregiudicatezza si muove. Stessa cosa vale per Malagoli. Gli ha tenuto il bastone per molto tempo, gli ha fatto da copertura, se così si può dire, a sinistra, però quando è stato il momento è stato scaricato bellamente, insomma. Infatti proprio Malagoli lamenta anche il metodo con cui è stato scaricato. Beh, ma non mi meraviglia di Malagoli comunque, perché cioè il problema di queste persone è che non vedono quello che succede. Allora, pensate come sono stato scaricato io e come Merola si atteggiava a me, con me sembrava che fosse il suo più grande amico, o come è stato scaricato Colombo, arrivato secondo nelle liste del PD. Malagoli sì, deve rimproverare se stesso perché non ha aperto gli occhi nel momento opportuno. È ovvio che se uno fa così, si comporta così con due assessori, poi lo fa anche una terza, una quarta, una quinta volta, a seconda delle convenienze, insomma. Però insomma il dato politico, adesso al di là di queste cose che sono questioni più legate al carattere delle persone eccetera, è ovvio che di meno chiunque al mondo non si può fidare, insomma non è una persona fidata, nel senso che personalmente non è una persona di cui ci si può fidare, cambia idea dalla mattina alla sera a seconda delle convenienze e non guarda in faccia a nessuno, non esistono rapporti di amicizia, non esiste niente. Quindi Malagoli, però lo sapeva anche prima Malagoli perché aveva avuto delle riprove da questo punto di vista prima, vedo di che cosa ci sia da lamentarsi. Il dato politico però è questo, insomma siamo di fronte a un partito che non guarda al bene della città, guarda alle sue questioni interne, alle sue questioni di potere, ma è così ormai, è così a tutti i livelli secondo me. È un partito che non è nato secondo un equivoco, secondo un gioco di potere, una fusione fredda, è un'anomalia in tutta Europa perché non esiste il Partito Democratico in nessuna parte d'Europa. Se in Germania si dice ai socialdemocratici di unirsi, non di fare un governo di coalizione, ma di unirsi alla CDU, tutti dicono ma voi siete matti, qui è successo, è l'anomalia italiana insieme a Forza Italia. Speriamo che queste elezioni ci portino ad essere un paese un po' normale dal punto di vista politico. Il Partito Democratico deve diventare un partito conservatore, perché questo è, e quindi deve cambiare nome, deve smetterla con la sinistra, non c'entra niente con la sinistra. Non c'entra proprio niente. Tu prima dicevi che quindi l'entrata di due uomini del PD serve a far digerire la candidatura di Casini? Certo. Ma no, non è quello, è che Casini gli porta dei problemi, quindi hanno bisogno di trovare delle caselle, devono accontentare le loro correnti. In un caso si accontenta Critelli e si toglie un peso economico alla federazione, secondo un vecchio, siccome loro dicono che sono sempre nuovi, che fanno del rinnovamento eccetera, esattamente quello che succedeva 20, 30, 10, 15 anni fa, insomma, cioè siccome hanno un problema economico interno spostano uno stipendio dal partito al comune, quindi questo è il uno. Quell'altro sta negli equilibri renziani, critelliani, unità, le elezioni eccetera, è la lettura poi che stanno dando i giornali, che io condivido, cioè c'è un problema interno al PD e quindi viene scaricato sull'amministrazione pubblica, alla faccia appunto dell'indipendenza dell'amministrazione pubblica, del sindaco. Faccio anche presente un'altra cosa: Merola ha iniziato con una giunta quando iniziò il suo mandato, dove la maggioranza maggior parte, cioè il numero dei non iscritti al PD era maggiore degli iscritti al PD. Questo la dice lunga anche su me, cioè si è talmente spostato che alla fine è tornato esattamente a fare quello che faceva prima. Adesso ha quasi un monocolore, a parte uno credo, tutti gli altri sono blindati, iscritti al PD eccetera, quindi non c'è autonomia del sindaco alla faccia della legge, il partito continua ad essere una sovrastruttura che impedisce al sindaco di svolgere pienamente il suo mandato, quello che prevede la legge, cioè di essere una figura indipendente, sì, cioè certo che rispetto a un partito eccetera, ma con delle caratteristiche indipendenti, sposta le sue problematiche anche interne all'interno dell'amministrazione, cioè tutti i cittadini. Insomma, non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Quando io sono stato, diciamo così, mandato fuori, feci una conferenza stampa dove dissi tante cose, ma quel giudizio che io espressi sul Partito Democratico, in particolare il Partito Democratico di Bologna, non solo è valido e se uno la va a rivedere vede queste cose qua, ma viene confermato dai loro atti. Poi capisco che ormai il mondo si può fare tutto, il contrario di tutto, ma questi sono i fatti, cioè poi non dico mica che siano cose illecite, sono lecite, non è che è. Però politicamente uno dovrebbe trarre le sue conclusioni. È un partito che non mi meraviglio che ci sia ancora qualcuno che pensa che dietro ci sia chissà quale idealità. Non c'è proprio nessuna idealità, ci sono solo problemi interni, giochi di potere. Del resto, voglio dire, non più di 2 mesi fa Merola diceva che Critelli era un bambino che doveva crescere secondo una litania che lui fa sempre, che non era esatto. Adesso, siccome ha vinto, ed è ritornato il suo migliore amico e gli infila quello che Critelli aveva chiesto ripetutamente che venisse collocato, perché, ripeto, ha un problema economico all'interno della federazione, quindi gli si toglie un peso e siamo sempre alle solite. Ripeto, non sto dicendo che queste sono cose illecite, sono lecite. Cioè, è possibile farla, certo, dopo poi c'è una lettura politica, io sto dando una lettura politica.